Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno, siete all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 448, nella quale cercheremo di capire chi ha paura dei piccioni, chi ha paura dei vegani, e ci sarà spazio anche per parlare dei coriacei elefanti, delle molli meduse e della dura vita dei visoni. Speriamo di avervi incuriositi. Dedichiamo questa puntata a un elefante di cui ignoriamo il nome. Prigioniero di un circo attendato a Santa Maria del Cedro, un paese della provincia di Cosenza, in Calabria, il 27 agosto scorso ha eluso la sorveglianza ed è partito in cerca della libertà. Forse cercava acqua, refrigerio, spazio aperto e cercando ha raggiunto il mare, dove si è fatto un bagno di fronte agli occhi increduli dei bagnanti. Di questo episodio, finito nelle cronache e nei social, vorremmo parlare. Sempre più spesso i circensi si dimostrano incapaci di garantire, oltre al benessere animale, anche la pubblica sicurezza. È importante ricordare che questa è la terza volta che un elefante di quello stesso circo si allontana dal suo recinto alla ricerca della libertà. Poi, tristemente, lo schiavo è stato ricondotto dal suo carceriere nella cella per esibirsi in pista, in esercizi innaturali, in un ambiente estraneo alla sua etologia. Chi paga per guardare spettacoli di circhi con animali sicuramente non si rende conto della vita contro natura che quegli animali, l'elefante e tanti altri assieme a lui, stanno conducendo. Prima di venire riportato nella sua prigione, per pochi minuti l'elefante ha potuto assaporare la libertà, quella che per il divertimento di alcuni gli è stata negata a vita. C'è un video che mostra l'elefante in acqua davanti al mare che forse non ha mai visto prima. È un mare sconfinato, un mare che lo divide da terre che sarebbero a lui sicuramente più consone. È un momento molto commovente. C'è una foto in particolare che lo immortala nella sua solitudine un po' sbigottita in quell'ambiente diverso, ma finalmente vero rispetto all'innaturale tendone con la musica nel quale si esibisce. Il momento però, come fa notare Rita su Facebook, è stato rovinato dalle persone urlanti che dalla spiaggia lo hanno attorniato per i soliti tristi selfie. Persone che ridono, sghignazzano, fanno battute. Di fronte allo spettacolo della nostra cattiveria raccontato attraverso lo sguardo di un elefante che per la prima volta vede il mare, scrive Rita, dovremmo solo vergognarci, ammutolirci, inchinarci e andare via in silenzio. Successivamente, continuiamo a leggere Rita, si è sparsa la notizia che l'elefante non fosse scappato, ma che i proprietari del circo lo avessero portato al mare di proposito, a scopo promozionale. Questo non cambia nulla di quanto abbiamo detto, anzi, il fatto che lo usino a scopo promozionale aggiunge solo crudeltà alla crudeltà. Conclude Rita, fargli assaporare la libertà per pochi minuti al giorno per poi riportarlo in gabbia e costringerlo a eseguire umilianti esercizi contro la sua natura è veramente quanto di peggio si possa fare a un individuo. Peace. fare ancora un episodio di cronaca che ci dà un po' il polso del grave disturbo di cui soffre il nostro rapporto con gli altri animali. Il 23 agosto scorso un bagnino di salvataggio della spiaggia riminese di Viserba, che voleva far rispettare il divieto di pescare e uccidere le meduse, è intervenuto quando ha visto il secchiello di un ragazzino pieno di meduse, appena pescate lungo la riva. «Devi lasciarle libere», gli ha detto, e a quel punto è intervenuto il padre, un riminese di 37 anni. È nato un alterco durante il quale il genitore prima ha tentato di uccidere le meduse con una paletta, poi ha preso a badilate in testa il bagnino. Padre e ragazzino si sono allontanati, ma sono stati rintracciati poco dopo dalla polizia grazie al numero di targa che alcuni testimoni erano riusciti a memorizzare. Il bagnino, finito al pronto soccorso, ne avrà per 8 giorni, mentre il genitore riminese è stato denunciato per lesioni. Insomma, una edificante scenetta da spiaggia. Detto sono tra gli organismi più odiati dall'uomo, ma non dobbiamo dimenticare che popolano il pianeta da molto prima di noi, infatti sono tra gli animali più antichi comparsi sulla Terra. Hanno anche un ruolo ecologico molto importante, infatti fungono da filtro per l'acqua di mare e contribuiscono al mantenimento della catena alimentare. La medusa più pericolosa al mondo è la cubomedusa, una piccola specie che vive soprattutto in prossimità delle coste australiane. Il contatto con i suoi terribili tentacoli può causare anche la morte di un essere umano. Ma la maggior parte delle meduse sono completamente innocue, anche se è sempre meglio evitare di toccarle. Fortunatamente nel Mar Mediterraneo non sono presenti meduse mortali. Le meduse urticanti sono diffuse, ma raramente rappresentano un serio pericolo per l'uomo. Non tutti si comportano come quel papà riminese, c'è anche chi è ricco di empatia e non ha paura a regalarla agli ultimi degli ultimi. Una delle persone più empatiche che abbiamo conosciuto si chiama Barbara, vive in una grande città, non ha paura di offrire il suo aiuto e ospitalità ai membri di una specie che è sempre meno tollerata nelle nostre città, il piccione. Barbara è vegana e animalista, l'ha intervistata la nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino. Sentiamo il servizio. Oggi sono andata a trovare Barbara perché volevo conoscere i suoi compagni di vario tipo e poi anche la storia di quelli che ha ospitato in passato. Qui chi c'è vicino a noi? C'è Paddy Garcia, che è il piccioncino che in questo momento è qua a casa. Un piccioncino un po' sfortunato perché ha una serie di patologie per cui non potrà essere più liberato, come invece si è fatto con altri piccioni, quindi rimarrà qua con noi perché da un occhio non ci vede e quindi sarebbe impossibile per lui difendersi dalle cornacchie o semplicemente dai gatti. Di mattina prende il sole sul davanzale, poi si mette sulla seggiola, poi si mette in bagno, poi si mette sopra Groucho Marx, che è il topino che c'è in bagno. Ho anche delle foto con la gatta piccolina dove si guardano. Io ho avuto dei piccioni che a un certo punto volevano andarsene, ho avuto Gino che ho avuto per tutto l'inverno e che ho liberato in primavera. Lui aveva un problema neurologico però risolto, aveva un calo di vitamine, una volta rimesso lui ti faceva capire andando anche solo alla finestra, sbattendo le ali, insomma lui voleva andarsene, infatti era un piccione sano e quando è arrivata la primavera l'ho liberato nella colonia che io curo qua davanti. Non è per tutti così, perché ci sono anche dei piccioni sani che ho avuto in passato che non se ne vogliono andare, perché comunque creano un rapporto molto stretto con gli umani e con la casa. La nostra prima piccioncina Arturina, quella che ha dato il via a tutto, 3 anni fa l'abbiamo trovata qua sotto ferita da una cornacchia. Lei paradossalmente faceva coppia col mio ex compagno, nel senso che lei saliva sulla mano del mio ex compagno, faceva l'accoppiamento come se fosse un piccione, cioè lei faceva le uova ogni mese, lei dormiva col mio compagno. E... Ma nonostante in casa ci fossero altri piccioni? Sì, noi avevamo 11 piccioni in casa, alcuni si sono conosciuti qui e sono andati avanti a fare le coppie, non so, Peppino per esempio era un piccione sano ma senza un'ala perché la veterinaria gliel'ha amputata perché ormai era in cancrena. E lui ha conosciuto la sua sghemba e niente, hanno fatto coppia e continuavano a fare il nido, le uova, ovviamente le uova vengono sostituite perché sennò nascerebbero piccioni su piccioni. Sghemba poteva essere liberata, ma una volta che una picciona fa coppia con un piccione non puoi dividere la coppia. Dei piccioni disabili come De Niro, che poi era una De Nira, che anche lei si è messa insieme a un altro disabile che avevamo qua in casa, perché tanti dicono però se un piccione non può volare, cioè che senso ha la sua vita? Non è vero, è un animale estremamente forte, è un animale che si reinventa la sua vita, cioè io queste cose non le sapevo, le ho imparate vivendo con loro. Io vedevo Peppino che anche senza un'ala era in realtà il piccione più forte di tutti, cioè comandava lui la colonia. Loro avevano tutti il loro posticino, che aveva fatto il nido sopra l'armadio, che avevamo fatto delle strutture apposta per i disabili, quindi Peppino anche se non volava poteva attraversare tutta la camera facendo dei ponticelli. Ognuno aveva proprio il suo nido, perché poi quando la compagna incomincia a covare in realtà la compagna passa dentro al nido 23 ore al giorno. Tubando, facendosi le coccole, perché poi i piccioni si baciano ed il bacio del piccione è un bacio bellissimo, perché prima si corteggiano, poi mettono il becco dentro al becco e fanno un movimento su e giù col collo, e poi a una certa ora fanno molto ridere perché si ritirano a dormire e poi all'alba alle 5 cominciano a grugare. I piccioni sono fantastici, loro sanno tutto, arrivano veramente vicino all'essere umano, sono esseri particolari. Love, love, I know you can hear me, you see we've known each other a long time, I guess right. Siamo ancora ad agosto e il nostro spazio musicale lo dedichiamo ad animali che stanno nell'acqua. L'idea era partita da un remix uscito di recente dei Massive Attack di un vecchio brano, però mi sembrava troppo moscerello per dedicarci anche 2 minuti, che però sentiamo durante la trasmissione. E allora poi sono andato a finire nel Code di Balena dei Cocteau Twins e sono finito per il jam con un classico del passato che si chiama The Whale Song, che appartiene a un album che si chiama Lost Dogs, dove però la musica e voce sono affidate a Jack Irons. Il testo dice: cacciatori di terra, cacciatori di mare, sfruttano qualsiasi cosa per denaro. Mi riferisco a chiunque approfitti di quello che è libero. Non reagiranno, è solo un pensiero che lo fa sembrare giusto. Se non vedi, la colpa è della tua vista. Prendi quello che vuoi, uccidi quello che puoi. È la sola via per la mente umana. Prendi le loro vite, vendi le loro parti, ma non potrai prendere i cuori. Mi sembra che non ci sia nulla da aggiungere e quindi passiamo all'ascolto di questo brano dei Pearl Jam. The sun was in cloud, the sun looked out, exposed a trail, mist and spouts, ships follow the ancient lead, deceiving friends under the sea. Wow, imagine that they won't fight back. I got a theory on that. A whale's heart is as big as a car. A whaler's thought must be smudged by the dark. They won't fight back. I'm Tusti Narvai, che in italiano significa gabbie vuote, ha concluso e divulgato i risultati video di una investigazione all'interno degli allevamenti di animali da pelliccia in Lituania. E il risultato è a dir poco scioccante. Un video mostra scene di cannibalismo. Gli animali sono costretti in gabbia e impazziscono, si mangiano letteralmente vivi tra loro, amputandosi intere parti del corpo e agonizzando per giorni prima di morire. Sono le immagini più ripugnanti che abbia mai visto, ha dichiarato l'attivista intervistato dai media lituani. Quasi 2 milioni di bisoni sono allevati nel paese baltico, dove negli ultimi anni sono confluiti numerosi allevatori provenienti da altri paesi, in cui è diventato illegale produrre pellicce. L'ultimo, in ordine di tempo, è il Belgio, 12° paese europeo a emanare un divieto di allevamento di animali da pelliccia. In Italia ne sono rimasti poco più di 20, che ogni anno abbattono 160.000 visoni. Negli anni 90, pensate, ne avevamo 125. Il mercato delle pellicce oggi è in profonda crisi. Anche stilisti come Donatella Versace e Gucci hanno preso le distanze dalle pellicce. Il team investigativo dell'Associazione Italiana Essere Animali ha già diffuso 3 inchieste sugli allevamenti italiani di visoni, filmando più volte comportamenti stereotipati, aggressioni e anche il momento dell'uccisione che avviene in una camera a gas. Con la campagna 160.000 visoni da salvare, l'associazione chiede un definitivo divieto nazionale di allevamento degli animali da pelliccia. Nel Parlamento italiano sono già state depositate 2 proposte di legge. Per chi desiderasse appoggiare la petizione 160.000 visoni da salvare, metteremo un link nel nostro blog e nella nostra pagina Facebook che, lo ricordiamo, trovate digitando Restiamo Animali, e ne approfittiamo per chiedervi di mettere il vostro like. If you help me just this once, I won't misuse you anymore. I won't be cold anymore, and I'll forever keep you in my heart. La notizia arriva da Calais, nel nord della Francia, dove la sindaca Natacha Bouchard, del partito conservatore Les Républicains, ha revocato l'autorizzazione a tenere un festival organizzato per l'8 settembre da un'associazione vegana. Ordine pubblico a rischio, ha spiegato Bouchard, preoccupata per le affermazioni del presidente della locale associazione dei macellai e salumai, Laurent Rigaud, il quale aveva avvertito le autorità che i suoi associati avrebbero reagito al festival, percepito come una provocazione, cercando quindi il contatto con organizzatori e partecipanti. A quanto sembra, i macellai, insieme con allevatori, cacciatori, ristoratori, intendevano allestire una grande grigliata provocatoria di carni davanti al festival, in modo da opporre salsicce e braciole alle verdure e al tofu del festival vegano. La scelta della sindaca, che si è piegata alle minacce dei macellai, è più che discutibile e va collocata in un dibattito in corso da tempo in Francia, dove si sta affermando nel discorso pubblico una strana idea dei vegani. Una categoria descritta come un organismo compatto, un po' pericoloso, a volte violento, avverso alle buone tradizioni gastronomiche francesi e ai relativi interessi economici. I media citano regolarmente, quasi per giustificare le minacce, lo hanno fatto anche nel caso di Calais, alcuni episodi avvenuti altrove, con vetrine di macellerie imbrattate e simili atti di piccolo vandalismo. Il senso del discorso è dunque che bisogna avere paura dei vegani. L'esito è però paradossale, perché le minacce dei ben pensanti macellai finiscono per impedire più che pacifiche manifestazioni culinarie non violente di persone che nulla hanno a che vedere con quegli episodi, peraltro assai limitati per numero e gravità. Il rischio è dunque che l'astio per i vegani, indicati come un'indistinta e temibile categoria, diventi il vero problema, in una stagione nella quale l'avversione per le minoranze, qualunque esse siano, attraversa tutte le nostre giornate. Per chiudere, una piccola annotazione. La scelta vegana è per alcuni un fatto personale, per altri una scelta etica e politica di valore pubblico, ma raramente può essere considerata una fonte unica e assoluta di identità. Si può essere vegani e animalisti, vegani e socialisti, vegani e reazionari, vegani e indifferenti, vegani e solidali, e così via. Pensiamoci. Madame de la Martinique, dis-moi je vous en prie, quelle est donc cette musique? Chiquita Madame de la Martinique, où allez-vous ainsi dans ce costume typique? Je m'en vais danser, oui, je m'en vais au bal, car c'est aujourd'hui jour de grand carnaval. Trompette et tambour sonnent le branle-bas, et tout le pays va danser la samba. Chiquita Madame de la Martinique, si c'est le carnaval, l'occasion est magnifique. Anche questa settimana il tosco vegan chef Gabriele Palloni ci consegna una ricetta a tema 100% cruelty free. Prendete carta e penna, ma se non ce la fate, nessun problema, troverete la ricetta anche in forma scritta nel nostro blog restiamoanimali.it. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. A parte tutte le frasi fatte sul tema del veganesimo, una delle affermazioni che più mi sento ripetere è: non ti invito a cena perché non so cosa farti. Ecco, vorrei rassicurare tutti quelli che vorrebbero invitarci a cena o a pranzo, ma sono tormentati dal panico di non accontentarci. E siamo gente semplice e ci contentiamo un poco, bastano due verdure fatte a modino. Ecco allora la ricetta salva la cena col vegano. Un piatto della cucina tipica della Basilicata, semplice, fatto con ingredienti comuni e per tutti questi motivi buono da morire. La ciambotta lucana. Gli ingredienti per 4 persone sono 2 cipollotti freschi, 1 spicchio di aglio, 2 peperoni, 1 melanzana, 3 patate, 2 zucchine, 200 g di pomodori ciliegia, qualche foglia di basilico, origano, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Iniziate preparando tutte le verdure. Sbucciate le patate e tagliatele a quadretti, lasciandole immerse in acqua fredda fino al loro utilizzo. Tagliate anche la melanzana a quadretti, compresa la buccia, e lasciatela riposare, con un cucchiaio di sale grosso e un peso sopra. I pomodorini andranno tagliati a metà, mentre le zucchine, dopo essere state accuratamente lavate, dovete tagliarle a rondelle piuttosto spesse. Infine pulite i peperoni dai semi e tagliateli a rombi. Pulite e tagliate i cipollotti a fette sottili. Fateli scottare in un tegame con poco brodo vegetale o acqua e quando il liquido si sarà ritirato aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Fatelo srollare per un paio di minuti e aggiungete l'aglio tritato, privato dell'anima centrale. Adesso sciacquate le melanzane dal sale e aggiungetele e lasciatele cuocere qualche minuto a fuoco medio, quindi unite le patate. Trascorsi altri 5 minuti aggiungete i peperoni ed infine zucchine e pomodori. Fate cuocere altri 15 minuti e a fine cottura aggiustate sale e pepe ed aromatizzate con le foglie di basilico spezzate a mano e dell'origano fresco o essiccato. Portate in tavola con un filo di olio extravergine a crudo. Un'idea per servire la ciambotta come antipasto con una veste sfiziosa può essere quella di servirla all'interno di piccoli panini svuotati della mollica. Con questa notizia, il 1° settembre in molte regioni assistiamo alla riapertura della caccia. Quest'anno la novità è che Federfauna ha lanciato la campagna Ferma l'anticaccia, un vademecum riassunto in un manifesto che offre consigli per contrastare, pensate, gli animalisti, che a dire di Federfauna sarebbero dediti ad operazioni di disturbo venatorio. Evidentemente la caccia è uno sport sempre meno gradito alla cittadinanza, un po' per la crescente sensibilità verso gli animali, ma anche per la costante invasione delle proprietà private, per il rumore degli spari che al mattino presto disturbano altre attività come per esempio gli agriturismi, oppure disturba chi desidera andare a correre o camminare nei boschi e non si sente sicuro. Con Ferma l'anticaccia, Federfauna mira a sostenere il cacciatore che, a suo dire, durante la propria attività, sempre più spesso è vittima della prepotenza di sedicenti amanti degli animali. Un aiuto semplice ma concreto, così lo pubblicizza Federfauna, che va dai suggerimenti su come segnalare possibili reati alle forze dell'ordine, fino a come effettuare una registrazione video in sicurezza e raccogliere dati sui comportamenti violenti degli animalisti. E qui, diciamo noi, sembra una parafrasi abbastanza surreale di Clint Eastwood nel film di Sergio Leone, quando un uomo contro la caccia incontra un uomo col fucile. L'uomo col fucile chiede aiuto a Federfauna. E siamo in chiusura. Vi saluta la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 449 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.